aiutò gli ebrei contro i nazisti, fece resistenza contro i fascisti. L'abbé Pierre ha vissuto con un chiodo fisso, liberare ogni uomo da un destino prefisso. 100 di questi sogni, 100 di questi anni, tu uomo profeta, tu partigiano, figlio del mondo, figlio del grano, deputato dei poveri, sostenne Gary Davis, sempre dalla parte degli umili, degli offesi. Quando la polizia uccise un operaio, lui lasciò il partito ed abbracciò ogni figlio. 100 di questi sogni, 100 di questi anni, tu uomo profeta, tu partigiano, figlio del mondo, figlio del grano. Nel 49 fondò Emmaus, dal nome di un villaggio della Palestina di Gesù. Un piatto di minestra a chi vive nello sconforto, un attimo di respiro a chi ha bisogno di un abbraccio. 100 di questi sogni, 100 di questi anni, tu uomo profeta, tu partigiano, figlio del mondo, figlio del grano. 100 di questi sogni, 100 di questi anni, tu uomo profeta, tu partigiano, figlio del mondo, figlio del grano.